miei coglioni nella vasca. Niente riverenza perché a mani in pasta. La conseguenza, ciò che vedo in vivo, non smazzo manco un grammo. Ma me ne fumo un chilo all'occhio, manco fosse un calo. Ho l'agente personale che mi tira pare. Lascialo pipare, cocaloidi nelle vene. Qua non si anda lo zio Jerry, non servono gli aiuti. Se consiglioni sono sta buone. Sembra attivo con gli amici del popolo, non arrestano il politico. Ma fortuna un ovulo è verso fatto. L'industria del tabacco uccide ogni anno più gente che l'embargo, lo sanno bastardi. Qua vale il guadagno, per questo sperinato ci tento te lo canto, il mio ego l'espando. Per questo non desisto, faranno di un povero Cristo il baluardo contro il loro perbenismo. È un giorno in TV fatto del giorno, un altro stronzo per fattanza non ha fatto più ritorno. Sto mondo, l'immondo, così ci porto il conto. Questa vita è mia, vaffanculo tutto tondo. Nanna nanna ia, nanna nanna ia, nanna ia, nanna nanna ia, nanna nanna ia, nanna nanna ia. Perché ormai è concesso tutto pure il retto. Le redini, le regge, chi dal servilismo infetto. Messo culo aperto, canto il mio disprezzo. La femmina delusa dal non aver rispetto. Ormai dato le sue grazie, non ci dona il proprio affetto. Vale per il bell'aspetto, in sta corte di cialtroni. Non partecipo al concetto, al massimo ci do colpe. Il concetto di consesso certo non è disinfetto. Ma difetta del rispetto di chi guarda in modo inverso. Spesso esso fa famiglia con canaglie. Reti, fili, crea maglie. Il sistema cerca baglie, già le false verità ritenute tali, volute dalle lobby per gestire i malaffari. Non facciamo disfattismo, non cerco del proselitismo, la mia via non è nichilismo. L'ismo tra le mie realtà quest'ultima, che cadrò come Annibale con la sua armata punica. Contro una Roma che ti dà pane e circense, vende droga in chiesa, smazza le dispense. Non voglio far messe, a me basterebbe